Siamo con Giulietta Fara che dirige la 20ª edizione del Future Film Festival alla Cineteca di Bologna dal 29 maggio al 3 giugno. Giulietta, ben trovata. Ciao, grazie. A voi. Sì, Edizione importante. la 20ª, un'edizione che qualcuno potrebbe dire, insomma, un traguardo. In realtà ogni anno per noi è sempre come il primo anno perché il programma è sempre tutto da costruire e poi, trattandosi comunque di un festival sulle nuove tecnologie, ci si deve aggiornare sempre anche su che cosa vale la pena proporre in relazione appunto a cosa si intende per nuova tecnologia per il cinema. Sì. Senti, ci racconti un po' di com'è strutturata l'edizione di quest'anno? Quest'anno abbiamo un programma che presenta un record, diciamo, di film selezionati, sono 33 in tutto, con 95 cortometraggi selezionati su oltre centinaia e centinaia, sono 600 corti arrivati in selezione e quasi 90 i lungometraggi. La selezione è basata ovviamente su film d'animazione con effetti speciali per quanto riguarda il Platinum Grand Prize, che è il concorso lungometraggi, e per quanto riguarda invece i fuori concorso ci sono 12 anteprime, quasi tutte italiane e qualcuna europea. Che cosa presentiamo? Per esempio, fuori concorso, uno dei film che io amo segnalare è questo On Happiness Road di Xing Fu Lushang, che è la risposta cinese, diciamo, alla città incantata di Miyazaki. È un film estremamente interessante anche dal punto di vista grafico e della storia. In concorso invece ci sono tanti lungometraggi in animazione con effetti speciali che raccontano la storia. La storia vuol dire che sono film diciamo, inseriti o nel mondo contemporaneo, quindi i problemi del mondo contemporaneo, ad esempio Teheran Tabù, che è un film assolutamente vietato ovviamente in Iran, che parla della vita di una donna e delle sue difficoltà appunto nel mondo comunque iraniano, islamico, e ancora per esempio film che raccontano la storia come appunto 1917 The Real October, quindi appunto la rivoluzione russa. Sono quasi tutti i film indipendenti, quelli che presentiamo al festival. Abbiamo fatto questa scelta anche per ragionare su che cosa viene prodotto nel mondo, quindi dagli Stati Uniti appunto alla Cina, al Giappone, sì, indipendente, e addirittura il film d'apertura, insomma, Unsane di Soderbergh, è un film tutto sommato gestito come un film a basso costo, indipendente, girato appunto con un iPhone. Perciò interessante anche per l'utilizzo delle tecnologie. Ecco, proprio a proposito dell'immagine, che direzione stanno prendendo le nuove tecnologie? Ma noi abbiamo una sezione interamente dedicata per esempio alla realtà virtuale, Sì. quindi una sorta di sala a cielo aperto che abbiamo inaugurato lo scorso anno con una selezione vetrina, quest'anno invece è proprio una sezione che tiene anche film in competizione. La realtà virtuale sicuramente è uno degli aspetti più interessanti oggi dell'immagine. È vero che più interessante di tutti non è tanto la realtà virtuale in quanto realtà virtuale, ma come appunto i registi utilizzano questa possibilità di avere a 360 gradi una visione appunto diversa dalla visione frontale, che era quella ottocentesca, no, del quadro. Ma invece appunto un'immersione, diciamo, dello spettatore che diventa in qualche modo anche lui attore. Ancora più interessanti sono gli esperimenti in realtà virtuale interattivi, che vengono chiamati app, ma di fatto sono appunto esperienze di narrazione interattiva, per cui l'utente, diciamo, lo spettatore diventa a tutti gli effetti un player, anche se non si tratta di un videogioco, ma comunque insomma interagisce. Quindi secondo noi sono un po' di anni che le nuove tecnologie portano il cinema verso una interazione del pubblico che appunto da passivo spettatore diventa attivo in vari modi. Anche l'idea appunto di Soderbergh di utilizzare, tra l'altro era partito, no, con Sesso Bugie, Bugie Videotape da un altro mezzo, no, come appunto la videocassetta. L'idea di Soderbergh di girare con l'iPhone è interessante anche da questo punto di vista. Un iPhone ce l'abbiamo tutti, perciò è una tecnologia assolutamente alla portata di tutti. Non c'è più la Red, le videocamere più costose del mondo, quella inventata solo per il tal regista, ma invece appunto uno strumento assolutamente banale, tra virgolette, però utilizzato in modo inedito, sfruttando anche che cosa? La bassa risoluzione di queste immagini, tornando appunto anche alla videocassetta che per definizione aveva immagini a bassa definizione. Bassa definizione che diventa un valore nella narrazione che viene messa in piedi, quindi anche i limiti della tecnologia vengono sfruttati come invece valore aggiunto e come caratteristica anche narrativa. Ok. Giulietta, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Sì, il programma presenta tra l'altro anche un omaggio a Isao Takahata, recentemente scomparso un mese e mezzo fa, cofondatore dello studio Ghibli assieme a Hayao Miyazaki. Tutti i riferimenti del festival sono su futurefilmfestival.org, abbiamo anche i canali social Facebook e Instagram, Twitter, abbiamo insomma molte possibilità di partecipare al festival sia con entrate singole che come card complessive che con accrediti ovviamente studenti o stampa. Benissimo. Allora, ricordiamo la 20ª edizione del Future Film Festival alla Cineteca di Bologna dal 29 maggio al 3 giugno. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Giulietta Fara. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a te, a presto. Ciao.